sarà la terza banca italiana che finalmente torna pienamente in forze ad operare per il sostegno dell'economia italiana e anche per i suoi risparmiatori che serve. Il 23 dicembre del 2016 la Consob sospende tutti i titoli del Monte dei Paschi fino a nuova informazione delle autorità competenti. Il 26 dicembre un comunicato stampa del Monte dei Paschi annuncia che la BCE stima a 8,8 miliardi, non più a 5, il fabbisogno di nuovo capitale e l'azione del Monte dei Paschi vale 15 centesimi con una perdita vicina al 100%. Ma solo due mesi prima, lo ricordiamo, il Presidente del Consiglio Renzi diceva: il 22 gennaio ha detto il Monte dei Paschi è risanato, adesso investire è un affare. Lo penso tuttora e credo che se ci sarà un investitore internazionale o italiano che vorrà investire sul Monte dei Paschi farà un affare. Fino ad oggi, come avete sentito, non è andata così. Anzi, adesso il ministro Padoan parla di opacità della BCE nella sua richiesta di aumento di capitale a 8,8 miliardi. Insomma, il giallo continua. Ecco Mario. È un giallo che può avere un lieto fine o è l'inizio di un disastro complessivo? Allora, finora il monte si è rivelato una fornace, nel senso che tu mettevi i soldi o metti i soldi e quelli escono, sostanzialmente vengono bruciati. Ora, vediamo quanto metterà lo Stato alla fine dell'operazione, diciamo, di nazionalizzazione, tra virgolette. Io ho il tremendo sospetto che non andrà. Ecco, senti, però adesso anche i giornali di oggi ne parlano tutti, anche Patuelli, che è il presidente dell'ABI, dice fuori i nomi dei primi 100 debitori del Monte dei Paschi. Se Patuelli, che è il presidente dell'ABI, in genere una persona seria, moderata, prudente, responsabile, prudente, dice prudente una cosa del genere, beh, qualcosa si muove. Significa che hanno mollato gli ormeggi, come si suol dire, e la banca avrà, diciamo, il suo destino in qualche maniera segnato, nel senso che secondo me il problema numero uno che è emerso alla fine dell'anno e sul quale tutti chiudono gli occhi ed è invece il punto cruciale è che la banca non ha mercato. Cioè, ma già le tre banchette, che erano in vendita sono ancora lì in vendita, nessuno se le compra e nessuno dice niente. Il Monte dei Paschi al momento non ha mercato, è un articolo che è sullo scaffale e non è stato acquistato da nessuno. La cosa grave è che in presenza di notizie price sensitive, come erano quelle, visto che il titolo era in quotazione in quel momento, e cioè l'arrivo di Soros, l'arrivo di Paulson, la trattativa, tutte balle, diciamo, non è vero, non è capitato, voglio dire, niente. Non c'è stato un comunicato ufficiale su questo, non si è mai detto chi teneva i contatti, il ministro del tesoro, il management notizie della banca, di giornale, insomma. Cioè, erano spifferi che venivano dati così ai quotidiani, che giustamente fanno il lavoro, riportano le notizie, ma è una cosa molto molto, senti, imbarazzante. Ma io ti faccio ancora una domanda anche sulla vigilanza, ecco, cioè. No, ecco, io voglio dire una cosa semplice, chi è che doveva vigilare? Facciamo, visto che Patuelli è pronto e chiede i nomi e cognomi, facciamo anche noi i nomi e cognomi. Chi è che doveva vigilare? Intanto c'è Banca Italia, prima. E chi era in Banca Italia che doveva vigilare? Il capo della vigilanza? All'epoca Tarantola. Ah, la Tarantola. Ah, che è quella che è diventata poi presidente della RAI. Sì, non solo lei, cioè, è una lunga batte dove il dente duole. No, è una lunga sfilza di soggetti istituzionali che avrebbe dovuto vigilare con attenzione sulla situazione del monte. Naturalmente dobbiamo ricordare che la situazione si aggrava quando viene comprata Antonveneta. Lì è stato l'hanno comprata al doppio del valore. Cioè, è una cosa, lì è stato un grandissimo errore. Non si è capito bene perché Mussari ha comprato Antonveneta. No, è uno di quei misteri che quando si scoperchierà, secondo me se ne vedranno delle belle. Perché il Monte dei Paschi è stato un punto di intreccio, una classica centrale tra la politica e la finanza. Assolutamente. La cosa interessante è la concentrazione del credito, dell'esposizione del credito in mano a i fidi, i prestiti a rischio, diciamo, in mano a pochi soggetti, appunto i primi 100 clienti e così via. E l'altra cosa è la ripartizione geografica del rischio, che è molto interessante, cioè che è concentrata nel centro-sud. Ma dimmi una cosa, quando Fassino diceva al telefono abbiamo una banca, se non mi ricordo male, sì, ma pensava Si parlava del Monte dei Paschi o no? No, lui parlava di Unipol. Allora era l'operazione Unipol. Un'altra banca addirittura. Però, sai, comunque MPS... il PD fosse cosa loro, fosse cosa loro, è storia. Ai tempi del Partito Comunista. No, però credo che ci sia stata un'evoluzione anche in seguito. Insomma. A voler essere diciamo più preciso, sì, era una gestione della banca, ovviamente anche politica, soprattutto sì, politica, ma in qualche maniera bipartisan, perché poi si mettevano tutti d'accordo su questo. Nell'Italia punto vera si mettono sempre tutti la d'accordo. La cosa interessante è che cioè, se voi avete notato, dopo l'intervento, il decreto del governo e l'operazione di sospensione della quotazione del titolo, di MPS non si parla più. Fine. Finito. Cioè, il problema. Noi ne stiamo parlando. Il problema, come dire, non esiste più. È così, si è volatilizzato. Stiamo aspettando il Palio. Va bene. Sì, okay. Ma Palio da quale? Quello d'agosto. Ecco, in questi 15 giorni, però, oltre al Monte dei Paschi, esplosa, senza, per la verità, senza molto stile, anche la guerra di successione alla Casa Bianca tra Obama che esce e Trump che arriva. Si stanno trattando, mi sembra, si direbbe a Napoli, a pesci in faccia. Mi sembra. Ai materassi. Ecco, sono i materassi. Ma sembra che soprattutto siano i democratici che, come si dice a Roma, non vogliono accettare questo passaggio. È tremendo. È così, Mario e Pietrangelo? È così, ho capito bene? Io temo sia un gioco delle parti, perché vale poi la sostanza, i fatti. Tant'è vero che se guardiamo la cartina geografica, per esempio i confini della Federazione Russa, i movimenti di truppe e le installazioni militari della NATO, che ovviamente significa gli Stati Uniti d'America, sono tutte concentrate nella provocazione militare. E quindi, sebbene ci sia questo passaggio... Però questa è ancora la NATO di Obama. Su via, giorno 20 finisce, e non credo che ci siano queste... Forse finisce anche la benzina dei tank. Io vorrei ricordare una frase che ormai è ricorrente tra quello che è il fronte degli alti lai democratici, o dove si uniscono ovviamente anche i neocon, i falchi, tutti quelli che si sono disperati per la sconfitta della Clinton. E l'ho ritrovato in un articolo di qualche giorno fa di Giuliano Ferrara sul Foglio, dove dice qual è il tormentone che ormai asseconda, tranquillizza quelli che si sono lamentati della sconfitta di Clinton. E a proposito di Trump dicono: vuoi vedere chi abbiamo vinto senza neppure averlo votato? Questo è interessante. Posso dire una cosa? Certo. La cosa secondo me stupefacente è il report sulle spie, sul cosiddetto hackeraggio russo. Allora, ne hanno rilasciato pubblicamente 25 pagine. Io le ho lette con... Una discreta attenzione, mettiamola così. Giovanni, non c'è nulla. Cioè, e l'intelligence americana ha fatto tutto sto lavoro per dirci che RT è russa. Perché la CNN che cos'è? Non è la diplomazia americana fuori? O per dirci che Guccifer è un hacker che forse è al soldo di Putin, cosa indimostrabile tra infatti l'altro. Infatti Trump si affida ad Assange, dire, mi noi sembra abbiamo, adesso, no? Sì, ma abbiamo parlato di Guccifer qua, a Mix24, mesi e mesi fa. Senti, c'era bisogno di un report dell'intelligence americana, è ridicolo. Siamo arrivati anche in questo passaggio così... poco elegante, siamo arrivati anche alla guerra dei vestiti, la rete che critica Dolce & Gabbana perché hanno lasciato che un loro vestito fosse avvolgesse il corpo peraltro significativo della nuova First Lady per le feste di Natale. Insomma, è il mondo politicamente corretto che sembra che proprio non ci sta. Tu femmine pensi? Pittate, quella roba lì. Sì, ma a parte le femmine pittate, gli uomini chic, ci sono anche della versione musicarella, ma vogliamo dire la sciocca presa di posizione del cosiddetto trio che si rifiuta di cantare. Non cantano per Trump e la cosa è chi se ne frega, ragazzi. Finirà che canteranno nei matrimoni. Speriamo. Senti, cosa ci fa ascoltare Pietrangelo oggi? Arriva. Stai attenta, ha avuto tutto inizio in questa stanza. Non pensare perdere di vista neanche l'ombra e fermati un momento a quel che sembra. A volte tutto quello che abbastanza, non chiederti se qui qualcosa è persa tra quello che uno vede e che uno pensa. Allora? E allora oggi, proprio oggi, in metropolitana c'erano un uomo e una donna che si baciavano. E siccome più che un apostrofo rosa tra le parole t'amo, il bacio è un colpo di pistola, è un delitto consumato agli angoli della bocca, insomma, quello sfiorarsi di due esistenze è diventato un fiume mai uguale a se stesso, e cioè il vortice del sempre. Attenta, Negramaro. Pazienza, ricordati degli angoli di bocca, sono l'ultimo regalo in cui ti ho perso. Ma tu, Mario, la tua bolla come la illustri? Intanto comincio con un grande pezzo di un grande gruppo. Vai. Per noi ragazzini questi sono i Simply Red. Allora, e questa è la Sunrise ovviamente. E Giovanni, volevo dirti questo. Allora, Tim Cook si è tagliato lo stipendio. Oh, che dolore, che dolore. Non ha raggiunto... non ha raggiunto gli obiettivi. E naturalmente ci sono anche le fake news. Che scoperta. E in Italia ne parleremo molto nei prossimi giorni. E in Italia cribbio. Bisogna fermare Bolloré e il finanziere bretone che sta scalando Mediaset in nome dell'italianità. Perché è chiaro, no? Che voglio dire, l'asset strategico del paese è Gerry Scotti, non ci sono dubbi. E si è mossa perfino la G-Com, e c'è stato un grande dibattito, quindi mischiando un po' tutto, sulla libertà di stampa, la democrazia. D'Urso fa più ascolto. Non ci sono dubbi. E Maria De Filippi più di tutti e due tutti. Messi insieme. No, se parliamo asset di asset strategici. Vabbè. Insomma, si è scatenato un dibattito sulla democrazia e la libertà di stampa, mettendo insieme tutta questa cosa. Allora, sempre con grande umiltà da cronista, ma ciò che conta per la democrazia, secondo me, è la disponibilità delle risorse per chi fa impresa editoriale. E oggi il problema per chi fa impresa editoriale in realtà è chi domina la rete, perché da lì tutto passa e passerà sempre di più, come vediamo dalle fusioni, dalla convergenza dei soggetti e così via. Allora, due titani, Facebook e Google, si spartiscono il mercato della pubblicità digitale nel mondo e in Italia. In Italia quel mercato vale 2,3 miliardi e il 68% degli investimenti si concentra su soli due soggetti, cioè Google e Facebook. Un oligopolio. È un oligopolio che strozza qualsiasi iniziativa offline e online, ed è questo il problema della democrazia e della libertà di stampa. Molto serio quello che dici, Mario, sì, questa volta. Sì, perché cioè quando, così, quando si sviluppano monopoli e oligopoli che sulla tagliano benzina della libertà. Esatto, perché certo, senza soldi non si fa niente, ragazzi. Salamino! E meno male che era buona la scuola, la buona scuola di Renzi, meno male. Un oceano sono i professori, un bicchiere invece gli istituti a disposizione per poterli contenere. Cocco, cocco, cocco, sentiamo un po'. Professore, per favore, mi sa di senato prima l'uovo pure. I maestri e i professori che hanno cambiato cattedra in questi primi mesi di anno scolastico sono 250.000. È il triplo del solito, commenta oggi Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, riprendendo un dettagliato servizio preparato da Tutto Scuola, che è la rivista specializzata dedicata ai docenti, ma soprattutto agli alunni. Mm-mm. E pertanto è sempre soltanto ricotta. Ed è la ricotta dei numeri. Il 78% degli insegnanti viene dalle isole, cioè Mario, dalla tua Sardegna e dalla mia Sicilia e dal meridione. Solo 2 docenti su 10 invece sono del nord. Ma la vera cifra è quella che invece riguarda le scuole al sud. In meno di 20 anni gli istituti, quelli al sud, hanno perso 500.000 di studenti, mentre al nord fa testo un incremento del 20%. Sono 800.000 studenti in più, in larga parte ovviamente stranieri. La sostanza è questa: al sud sparisce la popolazione giovane, mentre invece aumentano i professori, i bidelli, i tecnici di laboratorio e i venditori di merendine. Oggi che è il 9 dicembre, sono finite le vacanze di Natale. No, vero, 9 gennaio. Porca miseria. Sto 2017. No, è meglio, è un meglio. Mese in meno per arrivare alla fine. E tu stai là a dicembre, che te frega. Finiscono le vacanze di Natale e tornano in classe 250.000 docenti che sono stati appena trasferiti al nord, pronti però, giusto oggi cominciano le domande, a essere ritrasferiti al sud, dove però mancano gli studenti. Non ci sono le cattedre. No, non ci sono le cattedre, però qual è la soluzione? Già Antonio Stella ha proposto una soluzione, che ironica ovviamente, di deportare gli studenti del nord, portarli al sud. Ma io vorrei proporne un'altra in alternativa, ed è la Muina. E quindi, come da antica e mai cancellata regola, è semplice: quindi quelli che stanno sopra vengono messi sotto, quelli che stanno a poppa vanno a prua, quelli che stanno a destra vanno a sinistra, quello che sta sotto va sopra, chi va sotto coperta va sopra, e tutti attraverso lo stesso pertugio. Poi insomma, chi non ha niente da fare lo faccia qua e là. Alla faccia della buona scuola, Carmagnola! Dopo la pubblicità, una puntata dedicata a Nelson Mandela, uno dei grandi protagonisti del Novecento. Intanto, Gloria Guerrera, cosa ha scelto per noi oggi? Oggi una canzone per chi sbaglia ogni anno. Però, amore, fai presto. Ornella Vanoni, L'appuntamento. Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già. E oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più, che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente, passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Sister.